Investire informati. Ben ritrovato a Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Avrà pensato, sono una gabbia di matti questa mattina, invece proviamo così un po' per i nostri ascoltatori anche a decifrare certi fatti un pochino complessi a volte con un po' di sorriso, perché altrimenti qua li disorientiamo un po'. Anche questo fa il Salone del Risparmio, Galli, no? Chiamata raccolta tutta l'industria del risparmio, ma poi c'è l'apertura al pubblico indistinto che viene un po' a capire che aria tira, che cosa sta cambiando in questo panorama. Beh sì, è un luogo dove scambiare molte idee. Voi avete trattato un tema importante, quello dell'informazione, del modo in cui i prodotti finanziari vengono proposti, vengono venduti, dove tutti noi stiamo facendo un grande sforzo per aumentare la cultura, diciamo, del paese. Siamo un paese di risparmiatori che qualche volta non investono proprio bene bene bene. Certamente c'è l'autorità di vigilanza ormai che viene coordinata a livello europeo, come veniva ricordato da voi, che deve prendere delle decisioni difficili, perché ovviamente restringe uno spazio di libertà, ma in questo caso è chiaro che più che uno spazio di libertà è uno spazio, diciamo, dove ci sono delle proposte che non hanno nessun senso per il risparmiatore. Quindi è bene che si prendano questi provvedimenti e che alcuni strumenti finanziari non vengano lasciati a un'offerta così, così priva di ragioni razionali. Al Salone parliamo di cose, diciamo, più evolute, parliamo di come investire i nostri risparmi nel tempo. Il mondo è un mondo complesso. Il Salone si punta sulla globalizzazione. Oggi quest'anno, sì. Penso che abbiamo visto esattamente sulla nostra pelle di risparmiatori e investitori cosa significa globalizzazione. Cioè un provvedimento del presidente americano, sostanzialmente nel giro di pochi giorni muta profondamente quello che è il sentimento della borsa, delle borse mondiali. Quindi questo si riverbera ovunque, un provvedimento che avrà comunque un impatto limitato economicamente, perché sembra essere mirato solo sull'acciaio cinese, quindi qualcosa di molto specifico, anche di un impatto molto limitato dal punto di vista dei numeri, ma dal punto di vista di come si percepisce il mercato globale, di come si percepisce la fiducia, esatto, globale, lo spirito dell'iniziativa, cambia completamente le carte in tavola. E questo, così come l'evento Facebook, vediamo che si riverbera su tutto. Questo si chiama correlazione tra i mercati, è uno dei grandi temi che si tratta al Salone. Sappiamo che quello che succede dall'altra parte del mondo ci riguarda. Assolutamente. Ricordo l'ABC di questo Salone di quest'anno, si svolgerà dal 10 al 12 aprile, quindi metà aprile, al MICO Milano Congressi, che è la vecchia fiera. Noi ci arriviamo molto facilmente, Mauro. Sì, è abbastanza vicino alla nostra redazione, non esatto. Faremo molta strada. E quindi è la nona edizione di questo Salone, peraltro immagino già che l'anno prossimo starete già cominciando a pensare a qualcosa di importante per celebrare il decennale. Viene appunto considerata, generalmente definita, la kermesse dedicata all'industria del risparmio gestito, che pure ha vissuto molti cambiamenti nell'ultimo anno. È stato, Mauro, ne abbiamo parlato tante volte, l'anno dei PIR, dei prodotti appunto individuali di risparmio, che fanno leva sul forte incentivo fiscale per portare il risparmio degli italiani verso l'economia reale. Faremo adesso anche un punto della situazione su questo, ma avete deciso quest'anno, Galli, di articolare questo Salone e declinare le tre giornate del Salone, ogni giornata su un tema diverso: risparmio per la crescita, risparmiare con fiducia, risparmio per il paese. Beh, innanzitutto perché questi sono i tre cardini dell'economia, ossia risparmiare per la crescita, perché il risparmio deve andare verso le aziende che fanno investimenti e che quindi si indebitano per investire. Ed è importante che i mercati finanziari siano efficienti nel portare risorse alle aziende che sanno fare un piano di crescita e che sviluppano il paese. Risparmio per il paese perché il nostro è un paese indebitato, che forse ha speso male, ma certamente ha un problema di stabilità di questo debito, di gestione di questo debito. Quindi gestire il debito è qualcosa di molto relegato alla presenza di un risparmio gestito, una capacità di gestire, una capacità delle famiglie di cogliere anche quell'opportunità. Ovviamente sarebbe bene che lo Stato italiano spendesse bene quei soldi, ma sicuramente in momenti di crisi, ad esempio nel 2011-2012, la presenza di una capacità del sistema finanziario di stabilizzare il mercato dei titoli di Stato è stata molto importante per stabilizzare il paese. Intendendo con questo l'iniziativa della Banca Centrale Europea, appunto, di e soprattutto tutti quei flussi di investimento, mentre tu avevi dei grandi investitori internazionali, fondi pensione magari giapponesi che si spaventavano e scappavano, avevi dei soldi italiani che capivano che invece c'era in corso un processo di recupero del sistema, diciamo, con il cambio di governo e che quindi ha stabilizzato i flussi di investimento nei titoli di Stato. Queste sono cose importanti perché un paese che non ha quella capacità di avere delle risorse interne che colgono le opportunità di investimento è un paese che è in balia di ciò che avviene all'estero e ciò che si percepisce all'estero. E poi c'è il problema della fiducia, o meglio l'opportunità della fiducia, perché le famiglie italiane risparmiano e l'unico modo per risparmiare, continuare a risparmiare tanto, investire bene, è quello per cui questo avvenga in un contesto di fiducia. Un contesto di fiducia è un contesto dove c'è chiarezza informativa, c'è capacità di capire quali sono le esigenze, di poter trattare con una persona competente se non si hanno quell'autonomia di giudizio, e direi che 99.99% di noi ha bisogno di, così come andiamo dal medico e dall'avvocato e da tutti gli altri professionisti, abbiamo bisogno di quell'aiuto nel momento in cui investiamo. Ma questo investimento, così come nel nostro rapporto col medico, si basa sulla fiducia, cioè sulla capacità di riconoscere nel tuo interlocutore una persona competente e che guarda effettivamente i tuoi interessi. La fermo un attimo perché è il momento di dare un aggiornamento sui mercati finanziari. Naturalmente poi invitiamo di nuovo tutti gli ascoltatori, già ci state scrivendo e ci state così chiamando per intervenire in diretta, i numeri ve li ricordo, 800 24 00 24. È meglio che non lo faccia io perché stamattina li scambio. Questa mattina forse perché piove siamo tutti un po' pasticciati, Deborah ed io. Allora 800 24 00 24 per la diretta, invece 349 238 6666 se volete mandarci sms o messaggi via WhatsApp. Guardate anche Twitter perché stiamo intanto twittando, cioè insomma mettiamo dei messaggini dentro quella cosa lì, dove vi diamo anche delle indicazioni utili, tipo il sito del Salone del Risparmio, le modalità per iscrivervi, per partecipare. Due di denari. C'è qualcuno che fa il tifo per i tuoi risparmi, che sa mettere a frutto i tuoi investimenti. La nona edizione del Salone del Risparmio scenderà in campo a Milano nel più grande meeting sul risparmio gestito. La nona edizione del Salone del Risparmio, dal 10 al 12 aprile. Ma il tuo consulente finanziario ci va? Scopri di più su www.salonedelrisparmio.com. Questo è, come dire, lo spottino, il filmato, il video di accompagnamento che Assogestioni ha creato per lanciare quest'anno il nuovo appuntamento con il Salone, appunto, che abbiamo ricordato a tutti i nostri ascoltatori, si svolgerà qui a Milano dal 10 al 12 aprile. Ci saremo anche noi di Radio 24, ci sarà il Sole 24 Ore Plus con tante conferenze, saremo lì un po' a seguire l'evoluzione dell'industria del risparmio degli italiani, quali sono le novità, e faremo anche la nostra conferenza. La ricordo ancora, Mauro, così gli ascoltatori possono andare, magari coloro che hanno come dire, facilità di farlo, perché poi dovete venire a Milano. Avremo anche noi la nostra conferenza il 12 aprile alle 2 del pomeriggio. Fake finance in tasca, imparare a riconoscere le bufale che fanno male ai nostri risparmi, perché non abbiamo avuto solo i problemi di risparmio tradito in questi anni in Italia, ma oggi la novità è sdoganata da Donald Trump, che le bufale, e ci sono anche quelle finanziarie, raggiungono i nostri risparmi. E chiaramente, vista poi la grande confusione che regna nel web, questa confusione si traduce anche in scelte di investimento e di risparmio sbagliate, con grave pregiudizio per i denari che faticosamente accantoniamo. Mauro, del resto abbiamo aperto questa trasmissione parlandovi di delle opzioni binarie e di questi annunci che possono comparirvi in rete quando magari state sui social, e quindi vi arrivano queste sollecitazioni a guadagnare cifre mirabolanti in pochi minuti. Ecco, quello lì potrebbe essere preso come uno degli esempi di fake finance, o insomma notizie farlocche che puntano in realtà ai vostri risparmi. Come sapete, qui a Radio 24 li abbiamo anche chiamati i serpenti corallo, per dire una cosa molto brillante, dai colori vivaci e graziosi, e tuttavia assolutamente pericolosi e letali per quello che abbiamo potuto accumulare. Allora, torniamo a parlare del Salone del Risparmio. Avevamo ascoltato anche nello spot l'indirizzo a cui rivolgersi. C'è un'area poi per registrarsi, e so che ci sono già tipo 12.000 iscrizioni per la partecipazione, dottor Galli. Sì, il Salone ha di anno in anno andato a aumentare il proprio capacità di attrazione. L'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 15.000 partecipanti, anche quest'anno raggiungeremo queste cifre, probabilmente le supereremo, anche perché c'è una grande fame di conoscenza, e come ricordavate Il terzo giorno, giovedì 12, è aperto al pubblico. I primi due giorni sono un momento in cui gli operatori si confrontano anche con le autorità di vigilanza, con gli accademici. Il terzo giorno ha delle tematiche di grandissimo interesse. Voi avete ricordato la conferenza del Sole 24 Ore, ce n'è più di una. C'è un momento, per esempio, dedicato alle visioni del futuro, legato a come andremo a vivere il lavoro, e come andremo a vivere la città con i trasporti, con cosa significa avere un trasporto diverso che non è più individuale. Che sono poi anche grandi temi di investimento per il futuro, no? Su cui tutte puntare. Tutte queste riflessioni si riflettono nel modo in cui investiamo. Per esempio, un altro tema fondamentale su cui l'Italia è un po' indietro, tutto il tema della sostenibilità. Quindi di che cosa significa investire anche nel rispetto, diciamo, non solo dell'ambiente, ma delle persone che compongono il mondo economico. Sapete che la Commissione europea punterà moltissimo con il proprio piano di azione su questo. Quindi creerà un quadro anche di regolamentazione che porterà a dare enfasi alle offerte di questo tipo, alle offerte di investimento. E penso che le persone che vogliono avere un approccio più consapevole all'investimento potranno guardare a questi temi, perché dopotutto investire è importante per avere un buon ritorno, ma è anche importante perché c'è un'utilità sociale dell'investimento. È un po' come il principio di Adam Smith: ciascuno di noi compie delle scelte individuali, ma il risultato complessivo può essere virtuoso a livello economico. Ad oggi qual è lo stato di salute dell'industria del risparmio gestito? Quanti italiani investono in fondi di investimento? Che tipologia viene privilegiata? Appunto, quali sono i numeri più recenti dell'industria? Questo è un momento molto, molto fortunato. Il nostro paese sappiamo che ha dei punti di forza, per esempio l'export, soprattutto delle aziende più innovative. Il risparmio gestito è uno di quei punti di forza. Oggi sulle famiglie italiane ci sono più di 2.000 miliardi di euro che sono raccolti e investiti. Quasi 100 miliardi sono stati raccolti solo nel 2017. È naturale in un certo modo che sia così, perché i due pilastri dell'investimento delle famiglie degli anni, diciamo, degli ultimi 30 anni, cioè il titolo di Stato e l'immobiliare, hanno mostrato sostanzialmente un rallentamento per ragioni profonde che noi non vogliamo trattare, ma oggi diversificare verso mercati azionari, verso mercati internazionali, verso al di fuori dell'Europa, non è più semplicemente una scelta razionale, è proprio una necessità, a meno di rimanere su quei vecchi modelli di investimento del singolo titolo di Stato, ovvero di cadere, per esempio, nel problema invece delle promesse, della logica dello scommettitore, che è quella un po' dell'opzione binaria di cui parlavate. Avevamo un confronto l'altro giorno con dei cinesi. La Cina ha un problema gigantesco perché i cinesi sono degli scommettitori, non degli investitori. Cioè sono persone che pensano di poter scommettere sul cavallo vincente e guadagnare domani. Questa non è la logica del risparmio gestito. Questa situazione è venuta a luce quando 2 anni fa, all'inizio dell'anno, appunto in gennaio, è scoppiata quella famosa fase di speculazione di bolla, appunto, che c'era proprio per questo motivo, perché era stata generata da questi comportamenti. Noi italiani, per fortuna, non abbiamo questa malattia del gioco, è qualcosa che è limitato almeno non nel risparmio, vorrebbe da dire, perché in realtà poi il gratta e vinci, le lotterie istantanee e così hanno avuto in realtà un boom in questi anni. Noi italiani abbiamo un altro problema: siamo sostanzialmente dei conservatori, quindi nel momento in cui cambia lo scenario, obiettivamente le famiglie, i nostri genitori hanno potuto investire bene anche usando gli titoli di Stato per molti anni. Cioè i rendimenti reali del titolo di Stato o anche della seconda casa usata per investimenti sono stati eccezionali. Ma questo mondo è finito. Esatto, erano le fasi delle scelte di investimento e delle scelte finanziarie semplici, e quel mondo lì, appunto, non c'è più. E quindi noi oggi non ci rendevamo conto che in realtà quegli investimenti avevano una loro volatilità, una loro variabilità. Ci sembrava di avere qualcosa che valeva sempre tanto ed era pronta, liquida. In realtà non era così. Provavamo a vendere in alcuni momenti un titolo di Stato, scoprivamo che valeva molto meno di quanto. Però questa era la percezione. Oggi invece dobbiamo fare un investimento finanziario diversificato, dove siamo abituati a questo flusso di informazione continua, quindi all'andamento del prezzo, al momento della correzione del mercato. Noi abbiamo visto negli ultimi 2 settimane che cosa significa. Dobbiamo sviluppare una cultura che ci proietta nel tempo, nel lungo periodo, perché se inseguiamo l'andamento di breve termine ci facciamo del male. Disinvestiamo quando il mercato va male, quindi basso, investiamo quando è alto, abbiamo una logica non di investimento programmato, ma abbiamo una logica appunto un po' dello scommettitore che gioca sul mercato. tutto il salone, tutta la cultura finanziaria si basa sull'idea della pianificazione, della consapevolezza, informazione e pianificazione. Cioè non si scommette, non si va a pensare che quel titolo batterà, vincerà il cavallo vincente, ma si fa un ragionamento su un portafoglio, su diverse tipologie di investimento, su cosa succede da qui a 3, 5, 10 anni e in qualche modo si generano del reddito che ci aiuterà nelle fasi diverse della nostra vita. Oggi possiamo essere dei lavoratori e possiamo avere un reddito buono, meno buono, ma comunque che ci consente di risparmiare, domani può essere diverso o dobbiamo aiutare qualcuno della nostra famiglia. E questa pianificazione è essenziale perché ci porta a staccarci dalle decisioni estemporanee. Quindi se ci chiamano al telefono per proporci l'opzione binaria, sappiamo cosa dire. Speriamo, Mauro, guarda, prima di lanciare il tuo cavallo di battaglia, no, speriamo di aver risposto a Simone da Verona, che proprio poco fa ci ha scritto su WhatsApp: dopo il calo del 20% sulle azioni Facebook, volevo acquistarne un po', fiducioso di un rialzo delle stesse quando si sgonfierà la vicenda sulla privacy, che non sono tanto sicura che si sgonfi a breve, caro Simone, perché qua secondo me invece apriremo altre parentesi preoccupanti un po' per tutto il mondo dei social network, per cui non le diamo nessuna indicazione di investimento su un singolo titolo, non lo faremo mai. Anzi, le diamo un consiglio di lettura prima della parola magica che devo dire, perché proprio oggi con il Sole 24 Ore noi abbiamo il quinto fascicolo della collana cybersicurezza. Però perché ve lo dico adesso? Perché dal 25 di maggio entra in vigore il nuovo regolamento UE sulla gestione dei dati, che così grossolanamente potremmo dire dedicato proprio alla privacy, alla tutela dei nostri dati, e quindi lì potrà vedere che il problema della privacy è tutt'altro che in calo. Guarda, mostralo anche sul lo Facebook. Lo agevolo proprio sul Facebook, proprio sul grande Facebook. Incriminato. Ecco, parliamo di privacy sul Facebook. Due di denari. C'è il quiz. Allora, non abbiamo detto proprio la cifra precisa, però Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, l'ha arrotondata un pochino, ma siamo in grado comunque. Noi saremo altrettanto generosi se ci dite, anche per approssimazione, un'approssimazione ragionevole, a quanto ammonta la raccolta del risparmio gestito, a quanto è arrivata. Noi vi premieremo, non so bene ancora con che cosa, ma possiamo anche dare la guida sulla nuova privacy, è un tema di grandissima attualità. Io volevo dare invece un regolamento sulla MiFID 2. No, vabbè, niente, perché sai che sono appassionato. Abbiamo anche quella sulla rottamazione delle cartelle che circolava stamattina in redazione. Quarto premio, possiamo dare anche qualche ingresso gratuito al Salone del Risparmio, tanto si può intervenire iscrivendosi appunto sul sito. Allora, da dove vuoi partire? Sì, avevamo delle domande in sospeso per Fabio Galli, ma sentiamo anche Achille. Achille, infatti, buongiorno. Proprio da lui. Achille, ecco qua, Achille. È caduto e vabbè, pazienza. No, perché Achille spero che è avvocato, e quindi già, siccome io stavo già abbastanza motivato sulle questioni di regolamentazione, mi piaceva segnalare il caso di Achille, che appunto ci ha detto avvocato e sta seguendo vicende relative a società di investimento e consulenti finanziari che, ohimè, hanno sottratto del denaro agli investitori. Il tema della fiducia viene proprio toccato, peraltro. Fiducia, trasparenza, consapevolezza anche di noi investitori, perché alle volte, insomma, diciamocelo, siamo un pochino grossolani. Saremo grossolani, siamo sempre grossolani anche nell'epoca della MiFID 2, dottor Galli? La MiFID 2 è una direttiva che porterà dei cambiamenti rilevanti nel modo di avere informazione, quindi di avere trasparenza e capacità di leggere la qualità del servizio, il costo del servizio. È come tutte le direttive che hanno questa portata, diciamo che avrà bisogno di 1, 2, 3 anni per veramente modificare in toto, in profondità, le pratiche. Sarà molto interessante vedere come i risparmiatori coglieranno questa lettura, perché si parte ovviamente da un concetto di trasparenza, cioè ci saranno dei numeri più sintetici, ci sarà la possibilità di leggere questi numeri tutti insieme e di discuterli con chi ci ha proposto il servizio di investimento. Poi ci sono anche proprio delle cose che devono fare invece i gestori con i consulenti tra di loro per fare in modo che i prodotti giusti arrivino alla persona che ne ha bisogno. Quindi c'è un aumento della necessità di analizzare i bisogni del risparmiatore, di capire quel prodotto effettivamente va bene per quel risparmiatore. Quando noi abbiamo a che fare con qualcuno che semplifica molto, che non fa domande, che dice lascia fare a me, questa è la cosa giusta, la cosa buona, e non c'è spiegazione, non c'è contesto. Questi sono elementi sicuramente che devono far riflettere, nel senso che è come un bravo medico ti racconta che cosa ti propone, perché te lo propone, come vuole andare avanti, non ti dice semplicemente io ho la medicina giusta e si fa così. E c'è sempre un rapporto dialettico costruttivo con la persona competente, quindi la prima cosa è instaurare un dialogo in cui voi fate le domande e ricevete delle risposte che, capite, sono delle risposte solide. E MiFID 2, che è un tracciato, deve servire proprio a questo. Qualche volta qui in trasmissione è capitato anche di sentir dire quella frase che magari può capitare, ecco, metta pure una firmetta, sono solo carte, eccetera. No, non sono solo carte, quello è il nostro profilo di investitore. E la persona che ci sta appunto fornendo quelle carte deve usarle, e noi dobbiamo usarle con lui o con lei, proprio per sapere che cosa compriamo, che cosa ci serve, se è adatto ai nostri bisogni, perché poi questo dovrebbe essere lo scopo di una sana regolamentazione. Sì, assolutamente, e devo dire che c'è anche una responsabilità nostra di fare quello sforzo, nel senso che parlavate del serpente corallo, se non sbaglio, sì, ecco, c'è anche un po' il serpente corallo di dire non ti preoccupare, non ci mettere dell'energia, non... leggere questi documenti non è sempre, come dire, piacevole, uno potrebbe fare delle cose più divertenti, però l'investire i propri soldi è una cosa importante, e quindi capire, dialogare, chiedere è qualcosa, è la base del rapporto di fiducia costruttivo con sia con chi ti vende il prodotto, sia dietro chi ti vende il prodotto, chi te lo propone, il consulente, chi quel prodotto lo deve gestire, lo deve costruire, perché le domande aiutano anche, e questo è uno degli effetti di MiFID. Ci deve essere una comunicazione molto più intensa tra il consulente e il gestore. Certo. Senta Galli, l'edizione dello scorso anno del Salone è stata l'edizione della grande vetrina dei peer, che erano appena partiti grazie ad una norma di legge, la finanziaria appunto dell'anno precedente. Sono stati proposti, e nel corso appunto di questi ultimi mesi l'industria si è sensibilmente arricchita in termini di offerta, i peer, i piani di risparmio appunto, che sono questi nuovi strumenti di investimento destinati in particolar modo a far confluire il risparmio degli italiani verso l'economia reale. Sono fondi di investimento che hanno mediamente una durata di 5 anni, o quantomeno se un risparmiatore rimane investito per 5 anni ottiene un incentivo fiscale molto importante, ed è questo il tema su cui in particolar modo le società di gestione giustamente hanno fatto leva, perché è un tema sul quale gli italiani sono molto sensibili. Ad un anno di distanza dal lancio dell'operazione ormai questa industria si è consolidata, anche se manca un pochino la grande gamba che pure si cercava appunto di attivare con questa operazione, quella di portare gli imprenditori in borsa. Diciamo, è stata più la raccolta che gli italiani hanno fatto. Sì. E hanno, allora, sicuramente l'obiettivo ambizioso, che difficilmente si poteva raggiungere in 6 mesi, è quello di creare un mercato finanziario anche in Italia che porta risorse verso l'azienda medio-piccola, e che soprattutto crea un forte incentivo per quelle aziende che hanno la voglia, il coraggio, la capacità di quotarsi. Ti direi questo, che in realtà c'è stato un effetto molto importante sui segmenti di borsa della parte, diciamo, delle aziende medio-piccole. Sì. E questo in realtà sta portando prospetticamente, probabilmente già nel 2018, a un aumento importante di chi si va a quotare. Gli imprenditori guardano con un occhio diverso al processo di quotazione, perché ovviamente significa raccogliere capitale a un costo più basso, e quindi in realtà il processo virtuoso è stato innescato, ci sono quasi 11 miliardi di raccolte, 16 miliardi di patrimonio, su quella parte di economia è un fattore molto importante. Allora, vediamo se in quest'ultimo minuto riusciamo a premiare qualche ascoltatore. Massimo da Udine mi pare avesse prenotato. Mm-hmm. A quanto ammonta il capitale affidato dai risparmiatori al risparmio gestito, Massimo? Ma in Italia credo 1600 miliardi. Non ce la siamo portata a casa il premio. Lontanucci, magari la premiamo lo stesso, lasci i dati. Giuseppe da Bergamo? 9,9 miliardi di euro. No, niente da fare. Questa mattina, mannaggia, però premiamo l'impegno. Noi, premiamo come l'impegno sempre, le buone e quindi intenzioni. Premiamo sia Giuseppe che Massimo. Ecco, tra l'altro, la risposta giusta è 2.083 miliardi. Ricordo anche che... così, esatto. Sì, beh, certo, ma io l'ho letto. È facile così. Volevo ricordare che al Salone quest'anno viene confermato anche il progetto Il Tuo Capitale Umano, per chi vuole accarezzare, chi sta accarezzando l'idea di così attivarsi con una carriera nel mondo del risparmio, per cui magari prossimamente vi daremo tutte le indicazioni anche su questo progetto. Grazie a Fabio Galli, direttore grazie generale mille di Assogestioni. Vi ricordiamo dal 10 al 12 aprile tutti al MICO, al Salone del Risparmio, ci saremo anche io e Mauro. Certamente, vi aspettiamo qui a Milano. A domani, buona giornata.